numeri innanzitutto, sono circa 3.000 i positivi accertati in più, i morti sono stati oltre 500 in calo, ma lo sono anche i guariti, dati che inducono ad un certo ottimismo insieme al calo di ricoveri nelle terapie intensive. Nel frattempo le regioni varano misure più drastiche, la Lombardia, seguita a ruota dalla Toscana, impone l'uso di mascherine o generiche protezioni del volto, una sciarpa, un foulard, mentre si progetta la cosiddetta fase 2, il momento nel quale le misure si allenteranno. Come sarà possibile farlo? In quali condizioni? Il governo ci lavora, a quanto sembra. Così come ha lavorato e oggi dovrebbe varare le misure a favore delle imprese, si prospetta in alcuni casi la garanzia statale fino al 100% sui prestiti, mentre la ministra dell'istruzione Azzolina chiarisce che gli studenti saranno tutti promossi. All'estero si guarda la Gran Bretagna, dove Boris Johnson è stato ricoverato e dove ieri la regina ha parlato alla nazione. Agli Stati Uniti, dove si sono contati 1.200 morti e dove Trump si è detto convinto che il picco arriverà a breve. In Giappone, dove si va verso la proclamazione dello stato di emergenza. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. "24 Mattino" di Simone Spezia. Ed eccoci di nuovo, care ascoltatrici e cari ascoltatori, alle 6:31 minuti di questo lunedì 6 aprile, ad aprire la trasmissione con quello che abbiamo eletto al nostro inno, il nostro Bob Marley, che ci aiuta a farci un po' di coraggio in questi giorni difficili. Difficili per tanti motivi, per tutti coloro che in questi giorni hanno perso una persona, o che sono malati, o che hanno qualcuno che gli è caro che è malato. Per tutti quelli che ogni giorno vanno a lavorare e tengono in piedi il paese, per quelli che tengono in piedi gli ospedali. Per tutti quelli che in casa faticano a starci, sbarrati dentro, uscendo solamente per fare la spesa. E chi minimizza anche questo sforzo, beh, sbaglia. Perché anche questo non è facile. Ognuno di noi ha una sua storia, una sua vita e, insomma, rifuggiamo dai giudizi facili su come si sentono le persone. Ognuno ha il suo vissuto e ognuno la vive a suo modo e non abbiamo il diritto di dargli addosso, perché l'ho vista rimontare un po' sui social questa cosa almeno la vedo così. Insomma, magari invece c'è qualcuno di voi che si sente in dovere di giudicare chi un po' si lamenta, chi un po' la soffre. 349-238-6666, come sempre il numero per gli sms, i messaggi su WhatsApp e soprattutto gli WhatsApp audio, le vostre voci che voglio sentire come sempre. Come la vedete, come immaginate questa fase 2, come immaginate questo momento nel quale lentamente ovviamente usciremo da questa emergenza? Cosa vi aspettate? Allora, Iniziamo come sempre con un po' di audio dalla giornata di ieri, a partire dal capo della Protezione Civile Angelo Borrelli. I numeri ve li ho dati poco fa e sono dei dati importanti, perché ancora una volta confermano che i contagi crescono ma la cosiddetta curva si è appiattita. Ma sono importanti anche per un altro motivo, quello a cui stiamo guardando tutti è la situazione degli ospedali, perché tutte queste misure di contenimento servono a tanto, servono a non diffondere il contagio, ma lo scopo primario e iniziale era far sì che gli ospedali e le terapie intensive non si affollassero troppo, non andassero in crisi. E dunque il dato che ci fornisce Borrelli di ieri, a mio giudizio, è il più importante, è questo. Un'altra buona notizia è quella che da oggi si interrompe il trasferimento dalla Lombardia verso altri ospedali perché la situazione degli ospedali della Lombardia è tale per cui non c'è più bisogno dell'alleggerimento di pazienti dalle terapie intensive della Lombardia. Insomma, venerdì vi avevamo detto che la buona notizia era che a Lodi, uno degli epicentri di questa crisi epidemica, si erano liberati dei posti in terapia intensiva. Anche oggi abbiamo questo dato importante che ci fornisce Borrelli, il quale dice: sì, sono buone notizie, ma occhio, eh. Voglio concludere dicendo che oggi ho dato una serie di buone notizie, ma voglio anche ricordare che queste notizie non ci devono portare ad abbassare la guardia. Voglio ribadire l'importante messaggio che il Presidente Conte ha espresso anche oggi. È fondamentale continuare a stare a casa ed uscire solo per comprovate esigenze e necessità. Non tutti l'hanno capita, a giudicare da qualche foto che circolava ancora una volta sul sabato di Milano, la gente in giro, la bella giornata, troppi, un po' troppi, tanto che, dice l'assessore Gallera, sono proprio i numeri di Milano adesso a preoccupare. Milano 11.230 più 411, ecco, il dato su Milano è quel dato che vi dicevo che ancora non ci fa stare tranquilli. Invece Milano continua ad avere questa che sale in questa maniera e quindi è preoccupante, e gli altri due invece, Bergamo e Brescia, come si sono in qualche modo ormai da qualche giorno si sono livellate. Quindi Bergamo e Brescia livellate, e poi su quello che è stato fatto a Bergamo arriveremo più avanti alle 8:20, con un bel approfondimento che abbiamo organizzato. Così come approfondiremo un po' il come si è mossa la Regione Lombardia, perché pur in una situazione estremamente complicata qualche dubbio permane, dubbio che non sfiora l'assessore Foroni ieri in conferenza stampa, assessore alla Protezione Civile, ieri in conferenza stampa con Gallera, che la mette così. Però c'è anche da riconoscere, penso che sia dato un aggettivo, che fino adesso come Regione Lombardia, brutto da dire, ma le abbiamo azzeccate tutte, nel senso che tutte le misure che abbiamo adottato come Regione Lombardia poi sono state prese anche da altre realtà, e anzi, se fossero state ascoltate altre richieste da Regione Lombardia, probabilmente tutto sarebbe andato un po' meglio in generale. Ho visto molte perplessità, quantomeno sui social, su queste dichiarazioni di Foroni. Anche di questo parleremo, di come la Regione Lombardia ha gestito questa emergenza. Regione Lombardia che fa da apripista, e qua sì, in effetti lo fa, sul tema delle mascherine, che diventano obbligatorie per girare, così l'assessore Gallera sempre. Ah no, scusate, il presidente della Regione Fontana, via. L'ordinanza che abbiamo emesso ieri impone ai cittadini, quando escono di casa, di indossare sempre una mascherina o qualunque indumento copra la bocca e il naso. Questo per contribuire ad impedire il contagio. Da oggi la Protezione Civile regionale inizierà a distribuire gratuitamente ai cittadini una prima parte di mascherine che serviranno per i nostri cittadini per poter meglio rispettare l'ordinanza. In conferenza stampa ad Angelo Borrelli, il capo della Protezione Civile, chiedono: ma come mai lei non la mette? Lo ribadisco, il senso della mia risposta era questa: io sono qui dentro tutto il giorno e, come mi vedete, non porto la mascherina, ma per una semplice ragione, perché qui non ho possibilità di trovarmi in luoghi in cui c'è l'esposizione al rischio, dove ci possono essere più persone nello stesso ambiente. Il sindaco di Milano Sala dice: beh, sono un po' disorientato, il capo della Protezione Civile non porta la mascherina e la Lombardia mi mette l'obbligo. Lasciatemi innanzitutto dire che è un po' disorientante ricevere questa disposizione dalla Regione Lombardia e sentire Borrelli, capo della Protezione Civile, persona che stimo, dire: io non la metterò e terrò le distanze. Le ordinanze, le direttive vanno applicate e non discusse, per cui non posso che dirvi: applichiamo questa ordinanza della Regione Lombardia. Alla quale segue poi la Regione Toscana e l'assessore Gallera che dice no, ma non è disorientante. Non è disorientante, è molto chiaro questo messaggio, è un messaggio che mette la salute dei cittadini e la necessità di lavorare tutti a tutela nostra e degli altri, ed è più forte questo messaggio rispetto a qualche critica che può arrivare. Torna da noi Roberto Arditti, direttore editoriale di formiche.net. Roberto, buongiorno. Eccomi Simone, buongiorno. Buongiorno, come va? Tutto bene? Tutto bene. Ah, bene. Compatibilmente con la situazione, che è quella che è. Come ovvio. Ascolta, Roberto, mi dai una tua lettura di questa fase? Perché, insomma, se da una parte i numeri danno buone sensazioni, l'impressione è che questo insistere sulle buone sensazioni dei numeri stia conducendo ad un allentamento, come dire, della tensione da parte degli italiani. Però senti, un po' di desiderio di buone notizie insomma è fisiologico e io non me la sento di prendermela con chi ha voglia di sentire buone notizie. Io ho una qualche forma di perplessità sui numeri ufficiali che alle 18 vengono consegnati agli italiani. Purtroppo sappiamo che in realtà tema enorme i numeri questo, veri... Roberto, tema enorme questo qua, dei numeri, prego. I numeri veri del contagio sono ben altri, i numeri veri delle persone con sintomi sono ben altri e purtroppo, come le statistiche di moltissimi comuni italiani cominciano a dirci con una evidenza ormai incontrovertibile, anche il numero dei decessi è in realtà molto diverso da quello ufficiale, ma non perché vi sia, e in Italia devo dire che non c'è in alcun modo una volontà di occultare numeri. Su altri paesi, a cominciare da quello in cui la vicenda si è originata, cioè la Cina, io non metterei la mano sul fuoco nemmeno per una frazione di secondo. In Italia nessuno nasconde numeri, però è anche altrettanto vero che i dati che cominciamo a vedere dei decessi del primo trimestre di quest'anno in città importanti come Bergamo, per citarne una, confrontandoli con quelli del 2019, ci dicono che i numeri sono molto più grandi di quelli ufficiali delle statistiche Covid-19. Detto ciò, è evidente anche che dopo un mese sostanzialmente di riduzione drastica della vita sociale, economica e della gente per strada, le misure cominciano a funzionare. Io non credo che gli italiani si siano comportati male nel loro complesso in questo mese che abbiamo alle spalle. Anzi, guarda, i dati sulle trasgressioni, parliamoci, perché noi sempre poi si mette un po' l'attenzione su chi trasgredisce. I dati sulle trasgressioni, pur in crescita, restano molto bassi. Cioè c'è qualche, fammelo dire proprio brutale Roberto, c'è qualche idiota che persino positivo a Covid-19 se ne va in giro nonostante debba stare in quarantena. Però, certo. Però insomma, no, tutto sommato i dati del Ministero dell'Interno ci confermano che siamo stati, sì, molto ligi alle regole, tutto sommato. Anzi, sì, anch'io lo penso. Io penso che gli italiani hanno affrontato questa vicenda nel mese che abbiamo alle spalle con grande serietà e penso soprattutto al personale negli ospedali e in altre strutture ricettive, ma in particolare negli ospedali, che, diciamo la verità, nelle prime settimane ha combattuto con strumenti non idonei. Anche qui nessuno immaginava di doversi trovare di fronte a un'emergenza di questo genere, ma diciamo che medici e infermieri, che non a caso hanno pagato un prezzo e stanno pagando un prezzo molto alto anche in termini di vite umane perdute, hanno lottato per un certo tempo e probabilmente ancora con strumenti inefficienti. Dico solo, pur non essendo un esperto, che credo che si debba combattere il virus il più possibile lontano dagli ospedali, che poi per loro natura sono anche delle bombe virali. Che è stato, se vogliamo, uno dei grandi errori iniziali. Noi abbiamo intervistato venerdì il presidente della Regione Toscana, Enrico Rossi, che insomma è chiaro che nella Toscana è tutto partito più tardi, no? Quindi hanno potuto, se vogliamo, far tesoro di eventuali errori, e però la strategia è stata esattamente organizzare dei punti intermedi, più controllo sul territorio, meno pazienti che arrivano in ospedale per evitare esattamente questo. E questo è, ecco, un Simone, tema... solo, prego, una battuta. Prego. Solo una battuta. Sempre ricordandoci, sottoscrivo quello che dicevi, e anche la tendenza avviata in Regione Toscana come in altre regioni, io voglio solo dire che tra una serie di annunci ufficiali, penso alle decine, in alcuni casi centinaia di milioni di mascherine che vedo sbandierare in mirabolanti conferenze stampa e l'esperienza di tutti i giorni, c'è il fatto che se cerchi una mascherina, tu persona, in linea di massima non la trovi, parlo di quelle professionali, e allo stesso tempo l'esperienza di decine di migliaia di italiani è che per arrivare a fare il test, ormai il mitico tampone, tu ti devi sforzare, cioè devi combattere per riuscire a fartelo fare, e molti non ci sono riusciti, perché se non ci diciamo la verità, sì, pur in presenza, tra l'altro pur in presenza di sintomi, esatto, questo è questo, e questo è il tema. Allora, prima del traffico, no, anzi dopo il traffico, vi faccio sentire un paio di audio invece che hanno a che fare proprio con il rispetto delle regole. E succedono anche cose come quella che è avvenuta a Ferrara, no? Nicola Lodi, il vice sindaco, che riceve segnalazione di uno che corre per strada tutti i giorni con il suo cane e con una cassa con la musica ad alto volume, e lo va a inseguire facendosi riprendere. Non puoi ancora! Ma perché continui? Ecco il solito, vedete che corre tutti i giorni, il solito che continuiamo a fermare, vedete? Questa è la civiltà, in barba alle regole, perché sei il più figo a correre, tu col cane, tutti i giorni. E poi si scopre che trattasi di invalido civile, conosciuto in città, con due tentativi di suicidio alle spalle, con una pesante patologia psichiatrica e attualmente in cura, al quale i medici hanno individuato nell'intensa attività fisica un parziale rimedio insieme alle cure farmacologiche. Insomma, prima di fare queste sceneggiate, sarebbe tutto sommato il caso di informarsi un po', a dimostrazione di quello che dicevo, cioè noi non sappiamo che vita fanno le persone, quindi quando fate la foto del vostro vicino dal balcone che è andato a fare una passeggiata non autorizzata, pensate che magari può avere una situazione per la quale quella passeggiata non solo è autorizzata, ma consigliata. Nei giorni scorsi girava la foto di una signora con mano nella mano con un figlio abbastanza grande. Si scopre che poi è un figlio disabile con il quale che deve portare fuori ogni tanto durante la giornata. Quindi occhio, perché non sappiamo chi c'è dall'altra parte. Quando facciamo gli sceriffi da social per controllare che cosa fanno le persone. Poi chiaro, diverso il discorso quando ci sono 200 persone in darsena a Milano. Allora sì, quello è un po' più un problema. Vabbè, una mezza polemicuzza del giorno, il tema riaprire le chiese, non riaprire le chiese, Salvini. Per Pasqua, fateci assistere anche in 3, in 4, in 5 alla messa di Pasqua. Mi dicono, si può andare dal tabaccaio, perché senza sigarette non si sta. E per molti anche la cura dell'anima, oltre che la cura del corpo, è fondamentale. Quindi spero che si trovi il modo. Mi pare difficile. Di certo, caro Roberto, si inizia a ragionare un po' su questa benedetta fase 2, quella nella quale uffici e aziende, almeno in parte, con determinate misure di sicurezza e tutto quello che vogliamo, riapriranno. Insomma, finalmente il dibattito si è aperto. Poi come questo avverrà effettivamente non è per nulla chiaro. Guarda, io ho solo un'osservazione su questo. Gli italiani hanno capito che questa vicenda sarà un problema, lo è in queste settimane, continuerà ad esserlo, ci è costata migliaia di vite umane, altre ne costerà e così via. Io dico solo questo, dobbiamo metterci nelle condizioni, e devo dire a malincuore che penso che dovremo farlo più come Italia che come Europa, quindi io credo che gli strumenti anche di carattere economico dovranno essere più di carattere nazionale che sovranazionale, anche se vorrei poter dire il contrario da europeista convinto quale sono, ma non penso che in questa fase storica ci verranno da lì grandi aiuti. Bene, io dico che noi dobbiamo entrare nell'ordine di idee che un prezzo pagheremo, lo pagheranno le aziende, lo pagherà chi lavora, i professionisti, le partite IVA, chi ha un lavoro fisso, chi non ce l'ha, ma insomma un prezzo lo pagheremo. Ma io dico che sia il prezzo, diciamo così, fisiologico derivante dalla situazione che abbiamo vissuto in questa primavera. Il compito di tutto il sistema istituzionale in primo luogo è fare in modo che gli italiani paghino il prezzo dovuto, non di più. Perché se si a un certo punto vedremo, ognuno pro quota, che il prezzo pagato in termini di reddito, di altro, è di più o molto di più di quello fisiologico, allora monterà una incazzatura collettiva altro che quella del vice sindaco di Ferrara con quello che corre. Ecco, sì. Su questo, siccome adesso è il momento di creare le condizioni di un intervento strutturato, robusto, che lo si faccia a tutti i livelli, in modo tale, io credo che gli italiani sono e saranno disponibili a pagare un prezzo per questa storia, il messaggio l'abbiamo capito, sì. Bene, che quel prezzo abbia la dimensione equa, mettiamola sì. Così. Sì, anche se anche questa è difficile stabilirla. No, certo, però a buon senso, diciamo così, abbiamo capito che un quarto di quest'anno 2020 in termini di fatturato, di reddito è andato. Ecco, allora proviamo a parametrarci lì. Sì. È un buon punto. Un ascoltatore dice sul tema della gente che esce, non esce, discorsi pericolosissimi che autorizzano i cretini, la metto così, ad uscire. No, ripeto, semplicemente un ragionamento di buon senso. Facciamo attenzione sul tema della delazione, no? Del vicino di casa, perché non sappiamo che vita faccia e che situazione attraversi. A proposito di strategie di uscita, c'è il Veneto che sta pensando ed è partito per primo, seguita da altre regioni, ai test sierologici per dare una sorta di patente di immunità, chiamiamola così. Cosa vuol dire? Vuol dire che questo test indirettamente ti dice se hai avuto Covid-19, ti dice se hai gli anticorpi e quindi a quel punto puoi tornare ad uscire ad una vita semi-normale. Giustina De Silvestro è direttore dell'unità operativa immunotrasfusionale dell'azienda ospedale Università di Padova ed è una delle persone che ha in carico questa vicenda. Buongiorno De Silvestro e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. Allora, io l'ho semplificata in maniera radicale, perché insomma questo è il nostro mestiere di giornalisti, ma spero di non averla detta sbagliatissima. L'ho detta sbagliatissima? No, non l'ha detta sbagliatissima, però non sono io che mi occupo direttamente di questo screening, anche se ovviamente sono interessata tanto quanto lei e quanto tutti gli spettatori, cioè tutti gli ascoltatori probabilmente, perché effettivamente è un test che può dare un quadro più completo di quanto la popolazione sia venuta a contatto con il virus, quanti di questi abbiano superato già la malattia e abbiano quindi presenti quegli anticorpi che lo possono testimoniare e quanti siano ancora in una fase in cui la malattia la possono avere ancora addosso, e quindi quelli meriteranno poi un approfondimento successivo. C'è stata una grande divisione, De Silvestro, in questi giorni tra scienziati che dicevano, come la persona che in Veneto è stata una delle persone in Veneto è stata incaricata, il professor Palù, che è un luminare internazionale, che ci dicono che questi test sono certissimi, cioè danno una certezza al 96-97%, e altri che dicevano, per esempio dall'Istituto Superiore di Sanità, che invece su questi test, o dalla Regione Lombardia, che su questi test non c'è certezza. Cosa ci può dire? Teniamo conto che il virus è nuovo, quindi anche tutta la diagnostica che sta nascendo attorno a questo virus ha sempre un qualche punto di domanda. I punti critici per capire se questi test sono validi o meno sono la specificità e la sensibilità. La specificità vuol dire che nel test che io trovo positivo è positivo esclusivamente o specificamente per questo virus e non subisce interferenze da altri virus, da altri anticorpi. La sensibilità significa che il test va a colpire effettivamente tutti quelli che sono positivi, dandone praticamente la conferma di positività, e quelli che sono negativi sono veramente negativi. È chiaro che se il test non è sensibile e specifico al 99,9% come noi vorremmo, c'è un margine di incertezza. Sì. Allora ci si sta chiedendo, il dibattito che è nato è perfettamente affidabile, cioè io di fronte a un positivo o a un negativo di questo test posso dire alla persona: tu hai avuto la malattia e non ne hai più problemi, o tu invece non l'hai avuta, quindi devi stare attento? E la risposta qual è? La risposta ancora è un piccolo punto di domanda, cioè non ci si fida ancora a utilizzare questi test per dare una patente completa di malattia, ma in questa fase si stanno utilizzando per fare un'indagine epidemiologica, cioè per vedere quanto sono distribuiti nella popolazione, per avere un orientamento su quanto il virus è diffuso. Ok, quindi appunto lo si usa al momento per un'indagine epidemiologica nell'attesa di avere una maggiore certezza se questi test funzioneranno oppure no. Insomma, se sono, come dire, se ti danno la certezza assoluta o quasi assoluta, naturalmente. Certo. Su questo punto c'è un tema che ha a che fare con l'immunità, però, De Silvestro, della quale non sappiamo. Cioè, non sappiamo quanto uno resta immune a Covid-19 dopo averlo preso e dopo averlo attraversato, no? No, non lo sappiamo ancora, perché questo è un virus, è un coronavirus. È un coronavirus però che assomiglia molto, circa per l'80% nella sua genetica, al virus della SARS che noi abbiamo vissuto oltre un decennio fa, e che pare che gli anticorpi anti-SARS siano permanenti, cioè diano una immunità permanente. Quindi ci aspettiamo che anche questo virus possa comportarsi nella stessa maniera. Quindi gli anticorpi, una volta che sono sviluppati, potrebbero restare permanenti, quindi essere effettivamente una difesa. E questa è una buona notizia. Grazie a Giustina De Silvestro, direttore unità operativa immunotrasfusionale dell'azienda ospedale Università di Padova. Grazie anche a Roberto Arditi, direttore editoriale di formiche.net. Poi torneremo a sentirci. Roberto, con cosa chiudiamo? Beh, chiudiamo con il nostro inno. E dunque chiudiamo con Bob Marley, che ci dice: speriamo che, insomma, tutte le cose andranno bene. Il nostro modo di farci coraggio. GR24, ci ritroviamo subito dopo con la rassegna stampa.